A tempo di sport di Gigi Garanzini. Con implacabile puntualità riusciamo a partire anche oggi con gli Osanna all'Inter, i fischi alla nazionale, ma anche e soprattutto con un sospiro di sollievo collettivo che si è sentito stamane alle 9.28 quando è arrivato il seguente flash d'agenzia. Il Tribunale Civile di Milano, respingendo il ricorso cautelare di Conto TV, non ha sospeso gli effetti del contratto tra la Lega Calcio e Sky per la trasmissione delle partite di Serie A delle prossime stagioni. Il contratto vale 1.149 milioni di euro, ripeto 1.149 milioni di euro. Dello scampato pericolo, di che cosa avrebbe rappresentato una sentenza di segno contrario stamane, la cui eventualità era comunque concreta, quanto oscurata nei giorni scorsi dalla vigilia di Madrid, di tutto questo parleremo tra poco con Marco Beninazzo del Sole 24 Ore. Un sospiro di sollievo, vi dicevo, classico di quelli che arrivano dalle Alpi alla Sicilia e magari si ripercuotono fino alle piramidi. Il resto, le notizie di giornata, in particolare, anche se quella per il calcio italiano è di gran lunga prevalente sulle altre, l'Inter dunque a Milano si attende l'incontro Moratti-Mourinho, è atteso tra la mattinata di oggi, ma ormai non c'è stata, e potrebbe essere anche domani, ha detto il portavoce di Mourinho Paramesse, interpellato dall'ANSA. In ogni caso, davanti agli uffici della Saras nel centro di Milano ci sono già gruppi di tifosi che chiedono ad alta voce a Mourinho di restare. Poi c'era un'agenzia precedente che tra i candidati alla panchina dell'Inter inserisce anche il nome di Hodgson. Insomma, questo rimbalza dall'Inghilterra, non so quanto possa essere credibile, sarebbe credo il secondo ritorno, quindi la terza apparizione di Hodgson sulla panchina dell'Inter, ma sembra un po' superata, anche se quest'anno alla guida del Fulham Hodgson ha certamente fatto un eccellente cammino. Le altre candidature sono quelle che conoscete. Se Mourinho va via, la colpa è della stampa. Questo l'ha appena dichiarato il sindaco di Milano, Letizia Moratti. Se Mourinho va via, la colpa è della stampa. All'estero è meno critica e meno contestatrice. In Inghilterra, per esempio, i nostri allenatori che sono andati là dicono che l'ambiente dal punto di vista giornalistico è migliore. Da tifosa faccio un appello ai giornalisti: aiutateci a tenere Mourinho. C'è un appello accolto volentieri, disposti a incatenarci se fosse necessario, e è già arrivato un commento di un messaggio, Marco, da Massa Carrara, che appunto, riprendendo questo appello sfogo del sindaco di Milano Letizia Moratti, dice se la colpa è dei giornalisti, l'unica soluzione è più Minzolini per tutti. Firmato Marco da Massa Carrara. Poi ci sono notizie che arrivano anche da altri fronti. Per esempio a Firenze la piazza è calda, molto calda. Stamani due grandi striscioni contro i Della Valle sulla cancellata dello Stadio Franchi. E il primo recita Della Valle: ora tocca a voi, andatevene. E il secondo è ancora più greve. Tutto questo innescato dall'addio mai scontato di Prandelli, che è destinato a guidare la nazionale. Tutto questo passa, a parer mio, ancora in secondo ordine, se si pensa alla, ricomincio con l'ANSA, notte da incubo lungo il tratto marchigiano dell'A14 per una serie di scontri tra ultrà e rapine avvenuti in tre aree di servizio, protagonisti decine di supporter di Lecce, Pescara e Crotone. Minaccia finale di un paio di agenti contusi, 9 tifosi del Pescara arrestati con l'accusa di concorso in rapina aggravata. Incidenti più gravi nell'area di servizio Metauro Ovest: è successo che una ventina di teppisti del Pescara ha aggredito un gruppo di tifosi del Lecce di ritorno a Vicenza Lecce, cioè non c'entrava nulla tra loro, intendiamoci, questi sono odi antichi e stratificati, solito copione, ma solite rapine anche, perché poi ce n'è stata un'altra nell'area di servizio Foglia Sud, dove gruppi di ultra di Crotone, Lecce e Pescara si sono azzuffati tra loro dopo aver rapinato generi alimentari all'autogrill per migliaia di euro. Ancora, e trovo perfetta la frase di Moratti che ieri ha detto, vediamo se c'è in questo file audio che abbiamo, quando ha detto: beh, insomma, Mourinho, per carità, resterà sempre nel mio cuore, se la mettiamo sul piano della tempestività forse potevo anche sperare di meglio. Sentiamo se ha detto davvero testualmente così. Certo, il tempismo non è stato splendido, perché comunque i giocatori leggono i giornali anche loro, come li leggo io d'altro canto, perché un dialogo diretto non c'è mai stato su questa cosa, e neanche un tentativo di farmi capire direttamente questa cosa qua, e quindi è sempre stato fatto attraverso la comunicazione, attraverso voi. Ci possono essere delle strade magari per cercare di trattenerlo, e si possono percorrere queste strade, ma io credo che lui sia più attratto proprio da questa sfida, da questa avventura. Conoscendolo un pochino, non tantissimo, però mi sembra che questa sia la vera cosa che lo interessa, più forse dei soldi. E questa era un Muratti di ieri verso sera. Ci saranno evidentemente altri sviluppi, continuo a leggere molti vostri messaggi, però io arriverei per il momento, poi ovviamente riapriremo questo capitolo e altri capitoli. C'è anche una frase di Cannavaro in arrivo che mi è stata segnalata da Franco Piantedita, particolarmente significativa, questa è di fresco conio, però arriverei a Marco Bellinazzo che mi ha raggiunto nel frattempo in studio. Buongiorno Marco. Buongiorno. Senti, io non, insomma, l'ho caricata un po' all'inizio, ma non credo di aver esagerato. Cioè, ho avuto la sensazione nei giorni scorsi, e ne avevamo parlato anche perché la sentenza era attesa tra oggi e domani, al più tardi, insomma, ne avevamo parlato proprio, come dire, calendarizzando, no, questo appuntamento. Se stamane il giudice di Milano, che tra l'altro si chiama, adesso troveremo... Claudio Marangoni, perfetto, avesse dato, perché in fondo quando arrivi a una sentenza è come quando arrivi a una finale, no? Vince, magari uno è favorito, però può sempre anche vincere l'altro. Non è andata così sabato, non è andata così nemmeno stamane. Se fosse andata al contrario, e cioè se avessero sospeso con decorrenza immediata quei 1.149 euro alle società di calcio italiano, io mi 1.149 milioni di euro, mi correggi giustamente, io mi sarei immaginato una riunione di Lega in cui tutti si sedevano intorno al consueto tavolo con aria serena e rilassata, e poi qualcuno che apriva il bocchettone del gas dalle cucine e serenamente li avviava verso una fine il più dolce e il più inavvertita possibile. Le conseguenze sarebbero state, se non così tragiche, comunque molto, molto drammatiche, perché si deve partire sempre da uno squilibrio nei ricavi delle società italiane. Squilibrio che ci dice, come appunto a differenza di altre squadre, quelle inglesi, quelle spagnole, due terzi dei ricavi dipendono dai diritti televisivi. Due terzi. Molti di questi ricavi erano stati e sono stati già messi a bilancio da molte società. Questi soldi servono a ripianare i debiti rossi e passivi che molte società hanno, e servivano sia ad iscriversi al prossimo campionato con i più rigidi criteri finanziari annunciati dalla Lega, e il termine scade il 30 giugno, sì, sia a fare la campagna acquisti. Ecco, ma senza arrivare alla campagna acquisti, che poi ovviamente sarebbe stata arrivare. Secondo te, quante, cioè su 20 società di Serie A, lasciando poi stare anche le altre, oppure mi rispondi anche sulle altre, quante secondo te stamattina con una sentenza di segno opposto si sarebbero iscritte? Cioè, che campionato avremmo visto? Io credo che almeno una dozzina avrebbero avuto serie difficoltà. E tra l'altro, siccome questi soldi poi per i criteri di mutualità finiscono anche alla Serie B, certo, alla Lega Pro, considerando i problemi che hanno molte società finanche a pagare gli stipendi, come leggiamo purtroppo in molte circostanze, chiaramente avrebbe creato una situazione molto problematica, anche perché poi si andava incontro alla chiusura estiva dei tribunali, e quindi sarebbe stato difficilmente recuperabile un'eventuale sospensione in termini brevi. Voglio dire, un eventuale reclamo della Lega avrebbe dovuto essere accolto poi in tempi altrettanto stretti, e non è detto che poi si andava verso una soluzione positiva. Ora mi aspetto d'altro canto un ricorso, un reclamo di Conto TV, che lo ha già annunciato, anche perché, se vogliamo, nelle motivazioni poi che ha dato il giudice Marangoni ci sono osservazioni che si prestano in qualche modo a un reclamo da parte di Conto TV. Cioè, ci sono margini ancora perché la possano probabilmente sì. Il giudice Marangoni ritiene che la concorrenza non sia stata violata, perché ricordiamo, tutto nasce dall'assegnazione dei diritti per la trasmissione via satellite a Sky. Conto TV, che trasmette via satellite, si è ritenuta diciamo lesa nei suoi diritti, nelle sue aspettative, e ha fatto partire questa lunga querela giudiziaria che va avanti dallo scorso novembre. Il giudice, nell'ultima ordinanza, così saltiamo tutte le fasi intermedie altrimenti diventerebbe troppo lungo da raccontare, ritiene che invece la concorrenza non sia stata violata, perché Conto TV avrebbe la possibilità comunque di acquistare i pacchetti della Serie B e delle sintesi, delle ampie sintesi di 20 minuti delle partite di A, quindi accontentando una certa fascia di pubblico. E d'altro canto, ha osservato il giudice, quando diciamo in qualche modo è stata prevista la possibilità di acquistare questi pacchetti, Conto TV non lo ha fatto, per cui come dire, ha fatto riferimento a una sorta di pretestuosità del reclamo, sì, che Conto TV chiaramente potrebbe invece a sua volta contestare con un reclamo che però deve scontare, come ripeto, i tempi della giustizia italiana. Sì, insomma, diciamo che il pericolo è scampato, poi potrebbe ripresentarsi, ma insomma intanto già un po' depotenziato. Lì, assolutamente, no? E c'è un altro fronte aperto che bisogna ricordare, perché quando la Lega ha riformulato i diritti concedendo queste ulteriori chance a Conto TV, l'accordo era stato sigillato, certificato dall'antitrust. Sì. C'era stato poi un ricorso all'antitrust che ad aprile aveva invece dato ragione a Conto TV e quindi aveva dato torto alla Lega, che proprio stamattina ha annunciato reclamo contro questo provvedimento, quindi si dovrà pronunciare il Consiglio di Stato sui criteri che dovranno garantire la concorrenza nell'assegnazione dei diritti TV. Insomma, una vicenda giudiziaria che, come da prassi, estremamente complicata. Fatto sta che oggi i presidenti dei club di A ma anche di B possono tirare, come hai ricordato tu, un sospiro di sollievo, possono iscrivere le squadre al prossimo campionato, possono fare campagna acquisti e i tifosi possono continuare a sognare, se non che le vicende economiche del calcio italiano devono affrontare anche tra qualche giorno un altro problema. No, facciamo così, mettiamo in archivio questo, visto che abbiamo ancora quei 4-5 minuti, io credo, per arrivare all'intervallo della borsa, esauriamo anche l'altro, così poi facciamo sfogare gli ascoltatori di oggi, interisti, tifosi della nazionale e tutti quelli che come sempre vorranno intervenire. Venerdì c'è l'assegnazione dell'Europeo 2016, perfetto. L'Italia è ancora in corsa, l'Italia è palesemente inadempiente, perché gli stadi che aveva promesso di costruire non è che non li ha costruiti, non c'era il tempo, ma non ha preso l'impegno solenne di costruirli. O diciamo meglio, l'impegno che è stato preso non è stato ritenuto sufficiente nelle valutazioni preliminari che la UEFA ha pubblicato sul proprio sito la scorsa settimana. E in qualche modo, se già come dire, non partivamo proprio avvantaggiati rispetto alla Francia, forse rispetto alla Turchia sì, ma rispetto alla Francia no, con queste valutazioni che sono state rese pubbliche e che in particolare fanno riferimento proprio alla situazione stadi, l'Italia dovrebbe fare un miracolo per vedersi assegnare l'Europeo, con tutte le conseguenze che questo comporta su quei progetti di privatizzazione degli stati, di costruzione di nuovi stati che necessitano dei fondi europei, altrimenti difficilmente le società oggi sarebbero in grado di ottenere appunto risorse, per esempio dal sistema bancario, per costruirli da soli. I comuni hanno ricevuto, anche con la prossima finanziaria, manovra che insomma il governo sta per approvare, ulteriori tagli, e quindi difficilmente potranno accollarsi queste spese, e il 99% degli stati è di proprietà dei comuni. Quindi la mancata assegnazione dell'Europeo 2016, come già quello precedente, comporterà a mio avviso un grave danno a tutto l'insieme del movimento e alle stesse società. Doveva essere fatto, come architrave di questo progetto, di questa candidatura, una legge sugli stadi, è stata approvata in un ramo del Parlamento e ferma da 7-8 mesi alla Camera, come spesso abbiamo raccontato, anche se per esempio giovedì Lega, CONI saranno convocati per una audizione formale. Chiaramente non si è fatto in tempo, così come invece si era detto in un primo momento. Ecco, ma scusami, non è addirittura, adesso non vorrei esagerare, ma non è addirittura un po' patetica questa convocazione nell'immediata vigilia della decisione dell'UEFA? Cioè, non suona un po' come di, cioè, no, non è vero, non l'abbiamo studiato, però diciamo per citare Moratti prima, non è proprio tempestiva, non risponde, non è neanche decorosa di secondo me. Beretta, il presidente della Lega, oggi ha chiaramente fatto intendere che in ogni caso l'approvazione di questa legge sarebbe importante per il movimento a prescindere dalla candidatura, e direi meno male, perché siamo di fronte a una bocciatura possibile. ripeto, è il caso di non augurarselo, perché dalla costruzione degli stadi, dallo stadio privato, si può ricavare molto, come insegna la vicenda del Bayern. Si può anche fare molti debiti, come è accaduto per molte squadre inglesi che pagano e pagheranno nei prossimi anni per i debiti accumulati. Ma si può anche ottenere invece grandi incassi. Per esempio il Bayern, i 2/3 del bilancio del Bayern, dei ricavi del Bayern, vengono invece dai biglietti, dalle sponsorizzazioni, dal merchandising, ed è tutto l'indotto che c'è intorno allo stadio. E una gestione, come dire, più oculata può magari portare a perdere le finali di Champions League, ma almeno ci arrivi a fare la finale di Champions League e con un bilancio inattivo, che è il sogno di molti presidenti italiani. Direi anch'io. Grazie a Marco Bellinazzo. Grazie allora per questa puntualizzazione. Ripeto, la vicenda europea si concluderà venerdì con una improbabile assegnazione all'Italia nell'edizione 2016. Si è conclusa invece alle 9:28 di stamane la grande paura, si è risolta la grande paura del calcio italiano di club di ritrovarsi di colpo senza i 1.149 milioni di euro. Poi bisogna scriverlo in lettere, no? Come si fa per data l'enormità della somma che Sky versa al calcio italiano e con il quale lo mantiene in vita. Grazie a Marco Bellinazzo, dicevo. Scrive spesso ma scrive poco, mail ideale, 2 righe. Certo, adesso è facile dirlo, scrive Marino. Ma invece che per Amauri, non potevamo cercare magari trovare qualche nonno italiano per Milito? Questa sarebbe stata indubbiamente. Chissà se davvero Milito potrebbe avere remote origini argentine, visto che oltretutto Maradona, almeno fino all'altra sera, per Maradona era uomo da panchina, nella migliore delle ipotesi, fermo restando quell'altro scandalo di Zanetti e Cambiasso a casa. Io credo che Maradona, adesso arrivo ai vostri interventi, ma ci pensavo l'altra sera, io penso che Maradona stia un po' commettendo lo stesso errore che Sacchi commise nel 94. Sacchi nel 94 si ritrovò in Milan, che era soltanto, bastava cambiargli la maglia, no? da Rossi, da portiere in giù, ti cambiavi la maglia, poi ovviamente mettevi 3 italiani al posto di 3 stranieri, ma c'era anche l'identikit, no? perché Baggio per Savicevic, perché, se non ricordo male, Dino Baggio per Rijkaard, e non mi ricordo chi fosse l'altra pedina a cambiare, ma insomma non ha molta importanza, il concetto era, mi sembra, abbastanza chiaro. E invece lui cominciò Pagliuca, e Pagliuca non a caso costò la prima sconfitta contro lei, eccetera. Stavolta, sia pure in modo meno massiccio, ma insomma, gli argentini dell'Inter di quest'anno, no, io credo che se uno ha la fortuna di essere il C-titolo nazionale, che si ritrova Milito, Cambiasso, Samuel e Zanetti in quelle condizioni di forma, in crescendo tra l'altro, Se è normale, perché Maradona ha l'impossibilità di essere normale, insomma, se è normale cominciare quei 4 lì, poi vediamo gli altri. C'hai Messi, no? Insomma, la squadretta viene fuori. Stefano, provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno, salve. Io sono un tifoso interista e intervengo sull'addio di Mourinho, sostanzialmente. Sì. Io, come puoi immaginare, non sono soddisfatto dell'addio di Mourinho, anche se ritengo che la spiegazione che ne dà la Moratti sia abbastanza ridicola. Cioè, non è che Mourinho va via per colpa della stampa. La stampa negli altri paesi spesso è anche peggiore della nostra, è anche più becera. Il problema è il sistema, è il paese Italia, forse, il suo modo che ha di trattare con una personalità come quella di Mourinho. Mourinho si è posto in una maniera per cui il nostro, secondo me, il nostro atteggiamento, che tende a essere servile ma infido nei confronti di persone simili, che hanno anche una certa arroganza, ma è un'arroganza che deriva dai risultati, è quello di lodare e poi colpire con battutine, eccetera eccetera. Io guardo i risultati e vedo che Mourinho è arrivato qua, in 2 anni ha preso 2 scudetti, una Coppa Italia, una Champions League, battendo nell'ordine i campioni di Vabbè, insomma, sappiamo i campioni di, ma qual è la sintesi finale? La sintesi è che non basta dire che Mourinho va via perché la stampa è cattiva con Mourinho, non è vero. Mourinho va via perché noi abbiamo un modo noi come italiani abbiamo un modo di approcciare agli stranieri, specialmente agli stranieri che portano talento, che è, secondo me, fazioso e non guarda i meriti ma solamente a, diciamo, alle opinioni, ecco. Io faccio sempre fatica a difendere gli italiani, questo è uno dei rarissimi casi in cui non mi sento invece anti-italiano, tutt'altro. Stefano, grazie. Mario, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Garantini. Io volevo intervenire sul fatto di Moratti e le dichiarazioni di Mourinho e Milito, che sono state definite poco brillanti e intempestive. Secondo me non sono poco brillanti e intempestive, ma molto hanno mancato molto di rispetto nei confronti dell'Inter e dei tifosi dell'Inter, che sono mossi da un grandissimo sentimento per la maglia, e loro invece sono mossi solamente da un grandissimo sentimento per il professionismo mascherato da soldi. Beh, anche questo, sbaglia il tifoso che si illude che queste persone siano dei sentimentali, insomma. Sentimentale, un professionista può essere scambiato per un meraviglioso sentimentale perché fa un piantino alla fine, ma poi in realtà resta un professionista. Nel calcio di oggi, in cui il professionismo è così esasperato, resta un professionista esasperato che magari può anche essere scambiato per mercenario. Io questi sono eccessi che rigetto, nel senso che se c'è un contratto, cioè se queste cose vanno a contratto, sappiamo che le bandiere non esistono più, come le mezze stagioni, no? Forse l'abbiamo un po', dovremmo averli un po' superati questi discorsi o questa fase di discorsi. No, io trovo molto, molto serio l'intervento di Moratti quando non l'abbiamo sentito prima. No, prima ha parlato di tempestività e di scelta di tempo, per l'appunto. Io trovo molto più, ho apprezzato molto Moratti quando in un'intervista scritta che ho letto stamattina dice: beh, momento, ci sono sempre 16 milioni di euro e comunque di penale che mi risultano a contratto, e quindi credo che questo possa valere oggettivamente una riflessione, no? Poi la vicenda è conclusa, c'è il manager, leggo da Sky in questo momento, c'è il manager già a colloquio con Florentino Perez, il manager di Mourinho. Perfetto. Moratti dice soltanto, prima mi pare abbia detto, a me in faccia non l'ha mai detto comunque, primo. Secondo, poteva scegliere un momento migliore o comunque... insomma, non questo, ma nemmeno la vigilia, perché poi non è che la vigilia sia passata indenne rispetto a queste chiacchiere. Terzo, si ricordassero comunque lui o Real che è vero che c'è la clausola liberatoria di rescissione, ma costa 16 milioni. E mi sembra interessante come dato. Antonino, Padova, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzini. Sì. Prima di tutto le faccio i complimenti per la sua onestà professionale e tutto il resto. Io volevo parlare un attimo invece su Di Mourinho, che non approvo diciamo il suo atteggiamento all'inizio del campionato, che mi ricordo l'aveva soprannominato Specia, non mi ricordo l'aggettivo preciso. Cialtruan. Era più bravo diciamo a farsi aumentare lo stipendio che non tutto sommato come allenatore, mi sembrava che avesse detto una cosa del genere. Beh, insomma, io, questo era stato varato l'altro anno l'Inter oltretutto si ricorda il cammino in Champions e si ricorda che Moratti l'aveva ingaggiato più per la Champions che per il campionato, che nel frattempo avevano vinto anche altri. Mi pare che quest'anno il discorso sulla qualità professionale sia cambiato, e come, ma non soltanto perché sono arrivati i risultati finali, ma perché qualcosa di nuovo oggettivamente si è visto. Ecco, per questo le dicevo che quando si giudica una persona per simpatia o per antipatia, io stesso lo so che qualche volta le faceva fuori dal vaso Mourinho, perché nonostante sia di fuori interista, lo vedevo qualche volta, dava un po' fuori dalle righe, e naturalmente era un soggetto che gli piaceva di più essere antipatico che simpatico. Naturalmente, a parte questo, ecco, volevo dire questo, insomma, ecco, io penso che l'Inter se non ci arrivava Mourinho, non so quando avrebbe vinto qualcosa. Ogni modo, mi chiedo scusa un'altra cosa, vorrei fare un piccolo parentesi su Moggi. Ma molto, molto veloce, Antonio, perché ci sono un sacco di ascoltatori. Quando sento i tifosi juventini che stanno ancora spossedando Moggi, che io penso che l'ha detto anche lei una volta, i danni che ha provocato Moggi al Juventus, i danni di immagine che si era ancora l'abbonato. Sì, Antonino, però insomma sono vecchi questi discorsi. Dai, io ogni volta che sento i vedovi di Moggi apprezzo la serietà di Giraudo, che era il capo di Moggi, no? Era il responsabile di Moggi e poi un giorno è successo quello che è successo, sono stati travolti da uno scandalo. Da allora non sappiamo più nulla di Giraudo, se non che ha cambiato addirittura paese oltre che attività, e io trovo che il silenzio in questi casi sia un segnale di vera grande dignità, a differenza per l'appunto dei comportamenti altrui. Angelo Barletta, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io mi ritengo un, non dico un estimatore di calcio, ma non un tifoso sicuramente. Di chi di? Non un tifoso, non sono un tifoso, sono uno a cui piace vedere una partita. È sempre la premessa peggiore, perché dopo queste premesse qua ne escono storicamente a un'esperienza decennale. Provi. Provo a essere. Provi. Una cosa che mi ha dato fastidio durante la partita, alla fine della partita di Bayern-Inter, è stata la presenza delle bandiere delle varie nazioni addosso ai calciatori. Mi ha dato l'idea di una non squadra, ognuno con la bandiera del Brasile o del Portogallo. Di una multinazionale, mettiamola così, multinazionale, multietnica. Non pretendiamo di vedere la bandiera italiana, ma perlomeno la bandiera dell'Inter, voglio dire. Ma sai che, no, beh, la bandiera dell'Inter ce l'avevano e come, avevano tutto quanto di nerazzurro era possibile, e in più avevano i segni della loro identità nazionale che non possono e non vogliono dimenticare, lo trovo giusto, Angelo. Io questa trefanda, più che da Barletta, me l'aspettavo dalla Trota, sinceramente, me l'aspettavo dalla Padania, perché sono uomini, sono calciatori, hanno una nazionalità e la rivendicano orgogliosamente, ma in quel momento non la rivendicano, la sottolineano, la fanno partecipe di una festa, senza rinunciare a nulla in nerazzurro. C'era nerazzurro il Prato, il gradi, tutto, insomma, non mi sembra. Bergamo, Mario, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, due cose veloci, non sono d'accordo con la Moratti, uno. L'altra, volevo dire che qualcosa di italiano sabato in campo c'era, e c'era vantarsene, il vero calcio all'italiana, cioè che si giocava 40 anni fa, e giocato molto bene. E l'altra cosa erano due gli allenatori che andavano bene per l'Inter, uno ce l'ha fregato la nazionale, e l'altro non l'ha detto mai nessuno, ma a me piace molto. È un Norman One, Leonardo. Grazie, ascolto per radio. Grazie a lei, Mario. No, c'è poco da ascoltare. Lei ha detto un sacco di cose, ha detto molte cose con grande sintesi e con grande efficacia, e tra l'altro io le condivido. Volevo leggermi rapidamente una mail arrivata appena, dunque tra un'ora e mezza circa a Lugano va in scena, lo sapete perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa, prima per curiosità e poi perché è diventato, insomma, è diventata curiosa la cosa. Allora, lo spareggio Lugano-Bellinzona per la Serie A, il Bellinzona è in Serie A, il Lugano in B, il Bellinzona è arrivato penultimo in A, il Lugano secondo in B, stanno facendo lo spareggio, o meglio, Bellinzona-Lugano 2-1 a tempo scaduto nella partita d'andata. Tra un'ora e qualcosa a Lugano la rivincita, con Lugano che con un 1-0 semplicemente salirebbe in Serie A e retrocederebbe il Bellinzona. Scrive il dottor Cosimo Savoia dalla Svizzera, dal Ticino. Mi scrive di aver ascoltato prima gli incidenti, le notizie sugli incidenti accaduti ieri in Italia, e gli dice e aggiunge che, considerando che la Svizzera è una popolazione di 10 volte inferiore e che c'è oggettivamente un diverso tasso di civiltà, però precisa, per una partita di spareggio per l'A come quella di oggi, la mobilitazione di polizia e i rischi di scontri in ricovero, con ricovero in pronto soccorso, come già è accaduto in occasione dell'andata, non sono da trascurare. Questo non giustifica l'idiozia nessuna latitudine, precisa, ma le assicuro che l'Italia vista da qui è meglio di quanto appare. Vista da lì, un'impressione, dottor Savoia. Ripasserei la storia prima di tornare all'Inter con Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 maggio 1961. All'Olimpico di Roma la nazionale sfida in amichevole l'Inghilterra con l'obiettivo di battere per la prima volta i maestri. Il commissario tecnico Ferrari fa esordire due interisti, il centrocampista Bolchi e l'ala sinistra Mariolino Corso. Gli azzurri ribaltano il vantaggio iniziale di Hitchens con Sivori e Brighenti, ma nell'ultimo quarto d'ora due errori di un altro debuttante, il secondo portiere, lo juventino Giuseppe Vavassori, entrato al posto dell'infortunato Buffon, mandano in rete lo stesso Hitchens e Greaves, regalando il successo all'Inghilterra. Pochi mesi dopo, sia Hitchens che Greaves si trasferiranno in Italia, rispettivamente all'Inter e al Milan. Invece il quarto d'ora da incubo contro gli inglesi costerà caro a Vavassori, che non solo non sarà più convocato in nazionale, ma perderà il posto anche nella Juventus. È vero, bel ripasso anche oggi quello di Nicola Filippone. Gianluca è in linea da Lucca, buongiorno. Livorno, scusi per un errore di battitura sul display. Ci teniamo, lo credo. Ci teniamo molto a questo. Sì, no, volevo dirle, garanzia, ho sentito un attimo alcune telefonate, per cui così mi sono sentito un po' portato a intervenire. che mi farebbe piacere, specialmente la telefonata dell'ascoltatore di Trento che parlava, diceva che era la scusa di Mourinho, della stampa, che andava via per la stampa. Sì, è vero che no, ma non è solo quello. Obiettivamente però va detto, al di là del fatto che anche lei, Garanzini, un po' di, come si dice, un po' di ricredersi dovrebbe farlo. Ora è notorio che lei, tutti i giornalisti ma ricredersi su che, ma su che piano, però, Gianluca? Se parliamo di piano, se parliamo di piano tecnico, se parliamo di piano tattico in particolare, mi ricredo, cioè non si tratta di ricredersi, si tratta di vedere quello che succede, no? E quindi di raccontarlo con onestà, e direi che fin lì non... Ma se il giudizio morale di una persona deve cambiare in base alle vittorie o alle sconfitte, mi permette di non seguirla su questo terreno invece? Invece mi segua, perché mi ricordo bene come lei parlava di Mourinho all'inizio del campionato, in settembre, ottobre, mi ricordo c'è certi articoli. Se lei, non so se lo va a rileggere, un articolo di Tutto Sport abbia pazienza, io un articolo di Tutto Sport non posso né averlo letto né averlo riletto, perché sono imbattuto ormai da più di 10 anni, quindi non facciamo confusione. Io dico che se parliamo di responsabilità dei giornalisti o del, non so, o del calcio italiano che l'ha accolto male, eccetera, io ricordo una frase che poi una frase che, come sempre, sono frasi ad effetto, quelle di Mourinho, perché il comunicatore non si discute, in cui lui disse che lo esaltava il rumore dei nemici, no, e lo ha ripetuto spessissimo. Allora, mi dice che coerenza c'è nel farsi esaltare dal rumore dei nemici e poi piagnucolare se questi nemici sono e si dichiarano e si comportano come nemici veri? E non sto parlando del 95% della stampa italiana scritta e parlata, che in questo momento è a 90 gradi da sabato sera e comunque aveva già cominciato a portarsi in direzione dei 90 nelle ultime settimane, perché non si sa mai. Ripeto, per una questione di coerenza, se tu sfidi il mondo, no, perché tu dici che è il rumore dei nemici che ti eccita, che ti dà la carica e che ti ispira le vittorie. Questo ha detto lui. E io lo rispetto come motivazione, no? Perché è riuscito anche a trasmettere alla squadra. Ma se poi piagnucoli e prendi questa come scusa per andartene, quando invece è palesemente una scusa, perché non è per questo che te ne vai, ma insomma, io torno, resto fermo nella mia convinzione che trattisi di omino piccino piccino, come omino. Come tecnico la dimensione è un'altra, e mi pare l'abbia dimostrato, ma mi pare anche che fosse molto meno in discussione di quanto lei non abbia detto. Danny ha chiamato da Brescia, buongiorno. Pronto? Dica, Danny. Sono Gianni. Gianni, oggi il display è un periodo in cui forse al centralino potremmo anche, come dire, chiedere un minimo in più di attenzione, perché Luca Livorno già è un equivoco. Probabilmente è anche colpa mia. Che ha pronunciato male. Allora, complimenti per la sua trasmissione, sì, per lei come giornalista. Io ho risentito la dichiarazione di Moratti che lei ha fatto ascoltare. Sì. Secondo lei, visto che il buon Mourinho è un comunicatore e non ha avuto l'educazione di dire a Moratti prima della televisione che se ne andava, non sarà un buon servito anche da parte di Moratti? E poi le faccio altre due considerazioni veloci. Va bene che Mourinho è bravo, ma i giocatori che ha a disposizione non sono gli ultimi arrivati. Lei ha citato dei 3 giocatori. No, e sono anche certamente meglio, la interrompo un attimo perché poi c'è ancora un ascoltatore prenotato, vorrei dare spazio anche a lui. E sono certamente meglio, per esempio Lussio e Snyder sono meglio di Deco e Carvaglio, che voleva lui l'anno scorso ad ogni costo, magari perché sono sempre dello stesso procuratore, no? Queste poi sono riflessioni che magari a fine stagione si fanno. Dopodiché, se vogliamo parlare di come ha motivato Eto'o e Pandev, ma non solo in finale, fin dalle partite precedenti, in quel doppio lavoro esterno che indubbiamente è servito, poi anche lì magari la prossima volta prendi degli specializzati di corsia e non devi chiedere questi sacrifici a giocatori della qualità di Pandev e soprattutto di Eto'o. Ma se invece riesci a convincerli che così bisogna fare in quel momento, e questi lo fanno per più momenti, ma no, non c'è dubbio che questo sia un grande tecnico. L'omino, ripeto, è proprio piccino, e l'ha dimostrato anche in questo finale di avventura, no? Rubando ad ogni costo la scena a società e squadra con le sue vicende, e andandosene e decidendo di andarsene, ma prendendo altre scuse rispetto a quelle che invece era la verità e che poteva essere perfettamente legittima. Chiude Roberto da Torino, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno. Dica. Un paio di cose velocissime. Allora, sono tifoso del Milan, Ho fatto l'abbonamento al Milan nei periodi più sfigati, sfortunati di questa gloriosa società, e adesso mi ritrovo quasi disinnamorato di questa squadra, di questo pensiero debilitante, frustrante, insomma è una campagna elettorale continua. Roberto, la interrompo perché per me, a differenza che per alcuni colleghi, il tempo è sacro. La ringrazio, la richiameremo domani, approfondiremo il momento difficile del Milan. Filippo Aureggi in regia, Franco Piantanida in redazione. L'appuntamento è come sempre a domani.